Finanza Economia di Sebastiano Barisoni. Le 17:11 inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, si chiude oggi la trilogia, chiamiamola così per anche per alleggerire un po' il clima, la trilogia delle audizioni in commissione bicamerale, trilogia in realtà che non è proprio una trilogia, visto che era iniziata le audizioni più importanti, vi erano state anche la settimana scorsa, penso soprattutto quella di Vegas, però... oggi, in questa settimana, tra lunedì, martedì e mercoledì, abbiamo avuto prima il ministro Padoan, poi il governatore della Banca d'Italia Visco e oggi l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni. È chiaro che mentre l'intervento di Padoan e di Visco aveva anche un respiro ben più ampio del caso Boschi, e lo dico perché poi ci siamo occupati anche e soprattutto di quello, ma la Padoan non ha risparmiato critiche anche alla Banca Italia nel ricordare come e perché si sia confermato il governatore Visco, e ieri abbiamo criticato Visco perché comunque in tutta la sua audizione ci è sembrato di cogliere un eccesso, cerchiamo di essere educati, un eccesso di autoassoluzione, cioè mai un'ammissione che qualcosa non ha funzionato nel meccanismo dei controlli nonostante tutti i crack che ci siamo beccati. Oggi invece il tema riguardava prettamente il ruolo dell'allora ministro Boschi e anche delle eventuali pressioni da parte di esponenti dell'allora governo Renzi. Perché? Perché si fosse perso le puntate precedenti. Beh, l'audizione di oggi è stata decisa per andare a verificare di fatto se fossero corrispondenti davvero le parole riportate nel libro di Ferruccio De Bortoli, Poteri forti o quasi, in cui dice sostanzialmente, leggo il virgolettato: l'allora ministro delle riforme Maria Boschi chiese a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. Allora, questa è la frase di De Bortoli, così scritta nel libro, che non dice, visto che abbiamo avuto lo stesso tipo di garantismo anche per l'attuale sottosegretario Boschi, quando disse: ma io in Parlamento non ho mai detto che non mi sono occupata di Etruria, ho detto che ho sempre messo e anteposto gli interessi del Paese, e su questo ha giocato, diciamo, la coerenza con le dichiarazioni di Padoan e di Vegas soprattutto. Allo stesso modo De Bortoli non scrive l'allora ministro Boschi chiese di valutare, e Ghizzoni ha confermato questo, perché ha detto il 12 dicembre 2014 incontrai l'allora ministro Marilena Boschi, che mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare un'acquisizione o un intervento su Etruria. Quindi De Bortoli scrive, non, ci possiamo girare sotto, esattamente quello che è successo. Da lì non si capisce la querela o prima la minaccia di ricorso al tribunale e poi di causa civile. Possiamo far ascoltare Ghizzoni sulla Boschi, anche se poi il caso si apre, a mio avviso, è ben più pesante e grave, quando Ghizzoni parla della mail che gli manda Marco Carrai. Ora, Marco Carrai è un grande amico di Renzi, storico amico di Renzi, se non ricordo male, condivideva anche la stanza con Renzi a Firenze in un certo periodo, ma al di là di questo non aveva nessun ruolo nel governo, e quindi a mio avviso già la posizione della Boschi si complica, perché non si capisce, allora ti sei veramente data tanto da fare, ma soprattutto che senso aveva polemizzare con De Bortoli, che dice esattamente quello che dice Ghizzoni oggi. Sì, è vero, mi ha chiesto se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o un intervento su Etruria, ok? E questo hai fatto, allora bastava dire sì, l'ho detto nel normale interesse di un ministro per una banca e per un territorio in cui ho il collegio elettorale, va bene, bastava dire così. Ma se dici querelo De Bortoli, poi fa l'azione civile e poi Ghizzoni di fatto conferma che tu gli hai chiesto, senza, Ghizzoni aggiunge: non ho avuto pressioni è stato un colloquio cordiale senza pressioni, ma infatti De Bortoli non diceva che erano state fatte pressioni sulla Boschi, diceva che aveva chiesto a Ghizzoni di interessarsi. Ghizzoni effettivamente poi conferma che si è interessato, ha messo la pratica in mano a un suo dipendente e poi non la porta a compimento perché riteneva troppo rischioso. Sentiamo prima Ghizzoni sulla Boschi e poi invece il Ghizzoni anche su Marco Carrai. E comunque alla fine la ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria, stressando di nuovo che era fatto ed era richiesto, seguendo questa preoccupazione sugli effetti della crisi in Toscana. Cosa risposi? Risposi che per richieste di questo genere, quindi acquisizioni, non ero in grado di dare nessuna risposta, né positiva né negativa. Dissi che avevamo già avuto un contatto con la banca, che le mie strutture stavano già esaminando la cosa e quindi avremmo dato una risposta eventualmente alla banca, e tutto in totale autonomia e indipendenza da parte nostra. Per la verità, e qui devo dire tutto quello che è successo, mi arrivò il 13 di gennaio una mail da Marco Carrai, mail molto sintetica, me la sono trascritta, diceva: solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti, se possibile e nel rispetto dei ruoli, per una risposta. Per farla breve, decisi di non richiedere nessun chiarimento, e lo feci semplicemente perché non volevo aprire altri canali di comunicazione. Avevo detto che il mio canale di comunicazione, la mia risposta, andava esclusivamente alla banca, e risposi a Carrai dicendo che ok, stiamo lavorando, ti confermo che stiamo lavorando, quando avremo finito le nostre analisi contatteremo i vertici di Etruria e daremo loro una risposta. Beh, insomma, un po' tanto attivismo, tant'è che poi il 29 gennaio del 2015 Unicredit rispose a Etruria di non essere interessato a investire. Poco fa è arrivata anche una dichiarazione di Marco Carrai, che dice: anche nel caso della mail del 13 gennaio 2015 il presunto mistero è presto rivelato, si trattava di questione tecnica, niente di più, ero interessato nel rispetto dei ruoli, come ho scritto non a caso nella mail, a capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria, perché un mio cliente stava verificando il dossier di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà di Etruria. Tutto assolutamente trasparente, tutto assolutamente legittimo. Però scrivi direttamente al mio stato delegato. Però, insomma, la Boschi poi dice: confermo, nessuna pressione, ho solo chiesto informazioni. Che è esattamente, però, scusatemi, quello che ha scritto De Bortoli, perché io non capisco a questo punto più nulla. De Bortoli non dice, non scrive di pressioni, dice: l'allora ministro delle riforme Marilena Boschi chiese a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale, aggiunge De Bortoli, da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. E qual è il problema? È questo. Cioè, secondo me, se la Boschi avesse detto sì, ho chiesto, se, dopodiché, adesso arrivati a fine di questo poker, e cioè Vegas, Padoan, Visco e Ghizzoni, beh, emerge nettamente un interessamento forte della Boschi per Banca Etruria. Quello che non è chiaro è se abbia avuto lo stesso interessamento anche per le altre banche, oppure perché era il territorio, il suo collegio elettorale solo su Banca Etruria. Il problema è che poi di mezzo c'era il padre vicepresidente, il fratello dentro, il padre nel consiglio di amministrazione. Adesso è spuntato fuori, vedo dai giornali, anche il debito di uno zio della Boschi. Insomma, io continuo a non capire il perché della querela, della minaccia di querela e poi del tribunale, se Ghizzoni conferma che c'è stato un interessamento. Sì, mi scrive un ascoltatore, chiedere valutazioni non è come chiedere informazioni. Vabbè, ma resta sullo sfondo il fatto che lei, cioè, o Ghizzoni diceva: guardate, la Boschi mai mi ha chiesto di Banca Etruria, oppure se gli ha chiesto addirittura di chiedi valutare l'acquisizione di Banca Etruria, insomma, non è proprio, cioè, ci si può, sapete che chi vi parla è stato accusato di aver difeso la Boschi in questi giorni, ho semplicemente distinto nei vari interventi dalla settimana scorsa tra il merito, cioè che cosa succede nei fatti, chi ha la responsabilità di aver fatto fallire queste banche, e che sono in primo luogo i manager, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, gli organi di vigilanza, poi gli organi di vigilanza sui mercati, che secondo me non hanno, non secondo me, insomma, che qualche colpa ce l'hanno, qualche cosa non hanno visto. E poi invece l'opportunità politica di interessarsi, perché ripeto, Banca Etruria non è stata salvata, è andata in risoluzione, stava per andare anche in bail-in e quant'altro. Però oggi tutto l'intervento di Ghizzoni riguardava l'opportunità politica o meno, e mi sembra che su questo sia chiaro. Insomma, la Boschi dice, Ghizzoni mi chiese di valutare l'acquisizione di Banca Etruria senza che io, fu un colloquio cordiale, non avvertì pressioni da parte del ministro, ci lasciamo su queste basi, continua Ghizzoni. Gli altri temi di questa puntata, parleremo anche di una società che invece aveva un debito enorme con le banche, Monster, e veniva citata come l'esempio, diciamo, di quando sei troppo grande per fallire, too big to fail. Mi riferisco a Sorgenia, che riuscì ai tempi in cui era controllata dall'ingegnere De Benedetti ad accumulare un debito Monster nei confronti di banche che nel frattempo poi sono dovute, in Monte dei Paschi abbiamo visto che è successo, ma anche le altre hanno dovuto ricorrere a aumenti di capitale. La buona notizia è che Sorgenia ha compiuto un turnaround, cioè ha svoltato, come dicono i ragazzi, e sta iniziando a restituire anche con una seconda tranche i soldi. Ne parleremo. L'altro approfondimento riguarderà invece la vicenda Ilva, perché oggi c'è stato uno scontro fortissimo nel tavolo sull'Ilva convocato a Taranto. Di fronte al mancato ritiro da parte della regione del comune del ricorso al TAR contro il decreto con cui il governo ha modificato il piano ambientale, il ministro Calenda ha parlato di una trattativa conclusa e ha detto se permane la misura sospensiva presentata al TAR insieme al ricorso dal comune di Taranto e la regione Puglia il 9 gennaio, e se il 9 gennaio venisse accolta, il 9 gennaio inizia il processo di spegnimento dell'Ilva. E poi ha detto Calenda, senza ritiro del ricorso al TAR il tavolo è concluso, non posso far assumere la responsabilità di 2 miliardi di 100 milioni di euro per pagare il conto del non posso far assumere allo Stato la responsabilità di 2 miliardi e 200 milioni di euro per pagare il conto del ricorso. Emiliano dice Calenda ha avuto una crisi isterica, il clima era positivo da parte di tutti, il tavolo può proseguire anche senza Calenda, fa solo da mediatore, la soluzione si trova anche senza di lui. Insomma, si sono volati gli stracci, ascolteremo anche le varie dichiarazioni più avanti. A me quello che interessa, al di là dei rapporti tra Calenda e Emiliano, è che l'Ilva non chiuda il 9 e si mantengano gli investimenti anche sulla sicurezza, ma senza buttare via tutto. Comunque, questo è l'altro tema. Poi la borsa, come sempre, meno 0,80% Milano, meno 0,70%, Parigi, meno 1,20%, Francoforte, meno invariato invece il Dow Jones, meno 0,30%, Londra. Tra i titoli, Tenaris più 1,40%, Medest più 1,20%, Jux più 0,70%, Salvatore Ferragamo più 0,50% come Case New Holland, Italgas più 0,40% come Brembo. Fronte opposto, Unicredit meno 3%, Recordati meno 1,90%, Estima Electronics meno 1,70% come Telecom, Leonardo e Banco BPM, Buzzi Unice meno 1,70%, Terna meno 1,1%. Allora, su Sorgenia non mi scrive lei anche De Benedettiano? No, De Benedetti è uscito da Sorgenia nel 2015 e abbiamo attaccato non solo la gestione di Sorgenia, ma il fatto che proprio forse perché si chiamasse De Benedetti era riuscito ad avere dalle banche un prestito tale, perché aveva debiti per 1 miliardo e 800 milioni. In tutti i modi abbiamo criticato il paese dei due pesi e due misure, no? Quando hai un certo cognome e fai certi debiti le banche ti spalancano le porte, anche perché era il periodo in cui avevamo anche in onda quell'appuntamento sulla crisi che stava portando alcuni artigiani, commercianti, industriali a pensare addirittura al suicidio, ricordate l'appuntamento Disperati Mai. per cui ancor più fu sgradevole dover commentare un gruppo che invece aveva avuto dalle banche 1,8 miliardi, e a quel punto le banche non solo non gli chiedevano di rientrare, ma sono entrate nel capitale. Quello che commenteremo oggi di Sorgenia è il cosiddetto turnaround, cioè come ha cambiato pelle e come è riuscita a invertire la marcia. Allora, ancora due notizie, poi partiamo proprio con Sorgenia. Un anno e sei mesi all'ex presidente di Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini, questa è la condanna nel processo con al centro i presunti finanziamenti illeciti concessi dall'istituto tra il 2009 e il 2011. È caduta però l'accusa principale di associazione per delinquere, e il banchiere tra l'altro è stato condannato insieme a un altro imputato per un solo capo di imputazione. Altro fronte invece, quello che riguarda l'attuale amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il suo predecessore Paolo Scaroni, che sono finiti sotto processo a Milano per corruzione internazionale. Infatti il GUP Giusy Barbara ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio dei PM Fabio Di Pasquale e Sergio Spadaro e ha mandato a processo i due manager e altri 13 imputati, compresi Eni e Shell, accusati di aver pagato nel 2011 una maxi tangente da 1,3 miliardi di dollari a politici nigeriani per ottenere dal governo di Lagos la concessione per l'esplorazione del giacimento petrolifero noto come OPL 245. Il CDA di Eni nel frattempo ha confermato la fiducia circa la estraneità di Eni alle condotte corruttive contestate e ha confermato la massima fiducia nell'amministratore delegato Claudio Descalzi. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi la diretta su Facebook. Come dicevo, apriamo questa puntata parlando di un gruppo energetico di Sorgenia che dopo molti anni difficili sembra essersi messo il peggio alle spalle. E allora sì, parliamo di quello che si chiama in inglese turnaround, ossia quando riesci a svoltare, direbbero i ragazzi, cioè a prendere un gruppo che andava male, malissimo o con molte difficoltà e a portarlo in una nuova fase. Ne parlammo a suo tempo, ne parlammo nel 2015, ma anche prima, negli anni prima. Il gruppo si chiamava Sorgenia, produce energia e assunse agli onori delle cronache perché aveva un debito con il sistema bancario proprio negli anni in cui scoppiavano le difficoltà del sistema bancario e in primis col Monte dei Paschi, che era il primo debitore inadempiente del Monte dei Paschi per oltre 600 milioni, complessivamente 1,8 miliardi di euro di debiti con le banche. Nel 2015 l'azionista di riferimento, che era la CIR di De Benedetti e gli austriaci di Verbund, escono dal capitale, gli azionisti diventano le banche creditrici che convertono parte dei crediti in partecipazioni. Faccio un esempio, la sola Monte dei Paschi ha il 17% se non ricordo male, e anche lì molta polemica perché si disse il classico caso del too big to fail, quindi quando hai troppi debiti non ti faccio fallire, se sei un piccolo commerciante artigiano ti chiedo indietro fino all'ultimo euro, se hai talmente tanti debiti mi tocca entrare nel tuo capitale, e fu molto criticata. Perché ne parliamo? Perché lunedì scorso il Tribunale di Milano ha dato il via libera al piano di ristrutturazione del debito come previsto dalla legge fallimentare, quindi Sorgenia rimborsa ai creditori 150 milioni di euro, adesso cercherò di capire se, entro quando, che vanno ad aggiungersi ai 170 già restituiti lo scorso luglio. Ne parliamo, ecco perché dicevo vorrei capire quando, con l'amministratore delegato del gruppo Sorgenia dal 2015, in precedenza lavorava all'Enel, Gianfilippo Mancini, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto quando darete questa seconda tranche di restituzione del debito, visto che 170 li avete dati lo scorso luglio, i prossimi 150? I prossimi saranno il 29 di dicembre. Quindi quest'anno complessivamente Sorgenia avrà rimborsato 320 milioni di euro del debito originariamente contratto, e questo vuol dire che rispetto al 1,8 miliardi che ricordava lei, Oggi Sorgenia è una società che ha un debito inferiore agli 800 milioni di euro, questo grazie al lavoro fatto in questi anni. Come è stato possibile, visto che voi adesso avete più o meno un fatturato di 1,5 miliardi, il 3% del mercato italiano, avete chiuso i primi 6 mesi con utili per 23 milioni di euro e ridotto il debito, appunto, come diceva lei, sotto gli 800 milioni, 795 milioni. Gestite 4 centrali a ciclo combinato, lo dico per gli addetti ai lavori, sono in capacità complessiva di 3.170 megawatt con 200.000 clienti e circa 300 dipendenti. Cosa ha fatto in questi anni per uscire da una situazione oggettivamente difficilissima? C'è chi dice fallimentare, c'è chi dice solo perché eravate così indebitati che le banche vi hanno salvato, ma che cosa ha fatto lei dal 2015 in poi, da quando esce l'azionista De Benedetti, per capirci? Beh, diciamo, per prima cosa forse inquadriamo cosa è successo, perché la società si è trovata in questa situazione. Si è trovata sostanzialmente in una tempesta perfetta, cioè da un lato la caduta dei consumi, il 25% di domanda in meno di energia, a fronte di grossi investimenti che aveva fatto l'azienda, circa 3 miliardi di euro investiti. L'azienda in poco tempo era diventata la principale azienda privata italiana nel settore dell'energia. La domanda è venuta meno. Nel frattempo, diciamo, è cambiato tutto il paradigma del mondo dell'energia, quindi fonti rinnovabili, digitalizzazione, consumatori più evoluti. Sorgenia non è solo un produttore di energia, ma anche un operatore in tutta la filiera, certo, del gas, nel mercato all'ingrosso, nei clienti finali, e ha circa il 3% del mercato complessivo italiano. Quindi si è trovata in una situazione, come tanti altri operatori, ma con un'esposizione finanziaria molto più importante, in una situazione di difficoltà finanziaria. Quindi da lì è partita. Le banche hanno, con una certa dose anche di coraggio, preso in mano l'azienda, rilevandola, e lì è iniziata la trasformazione. Un nuovo piano industriale che ha puntato a, diciamo, assecondare e guidare la trasformazione dell'energia. Cosa vuol dire? Grandi investimenti sulla flessibilizzazione degli impianti, sulla digitalizzazione, un nuovo modo di lavorare da un punto di vista di creatività, innovazione, nuovo sviluppo di offerte, la presenza, l'ingresso nuovamente sul mercato delle famiglie, del residenziale, attraverso offerte digitali che facciano leva sui canali digitali. Con una serie di ricadute, di benefici, perché utilizzando i canali digitali si riducono molto, moltissimo i costi. Abbiamo inciso molto sulla nostra struttura di costi. Ecco, dopo il meteo e la pubblicità, però, visto che ne sappiamo qualcosa anche noi qui di riduzione dei costi, ma di rilancio dei ricavi, cioè come tema, dopo le vorrei sapere, benissimo tagliare i costi, ma il tema tra voi dibattuto come manager è anche come si riesce a tagliare i costi senza azzoppare e zavorare i ricavi. Se mi dà la risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che molti messaggi riguardano anche Carrai, la sua replica. Dicono, ma che è insider trading per gestire un cliente, parla come se fosse delegato? Non mi sembra una linea così netta dire ero interessato nel rispetto dei ruoli, come ho scritto nella mail, a capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria, perché un mio cliente stava verificando un dossier di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà di Etruria. Vabbè, andiamo avanti invece con l'amministratore delegato di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, a cui avevo chiesto di raccontare questo turnaround, questo svoltare del gruppo. Ho ripetuto, lo dico a chi mi scrive, quanto fosse indebitato e quanto scandaloso fosse l'accesso che avevano dato le banche al debito, 1,8 miliardi, probabilmente perché l'azionista a quel tempo era De Benedetti. Ma vorrei capire, questo svoltare, Mancini, come si fa? Cioè, come si fa a tagliare i costi senza però compromettere e azzoppare i ricavi? Beh, diciamo, quello che abbiamo cercato di fare è stato tagliare i costi non produttivi e viceversa dare fiato alle iniziative più promettenti. Quindi questo ci ha consentito di ridurre i costi nell'approvvigionamento del gas, per esempio, di essere più precisi nello spendere i soldi sulla manutenzione e lo sviluppo degli impianti, solo dove serviva. rendere gli impianti enormemente più flessibili. Oggi gli impianti di produzione lavorano in un modo completamente diverso dal passato. Ci sono le rinnovabili non sono programmabili, quindi bisogna riuscire a produrre esattamente la quantità di energia che serve ai clienti e alla rete in un certo momento, che non è programmabile, quindi devi avere impianti e persone molto più flessibili in grado di rispondere alla domanda esattamente nel momento giusto. Questo è quello che abbiamo fatto in questo, oggi mi sentirei di dire Sorgenia è il leader del mercato, e quindi questo ci ha consentito da un lato di contenere i costi, di ridurli in maniera significativa, ma soprattutto di cogliere grandi opportunità sul mercato. Questo sul mercato all'ingrosso, sui clienti finali, dove siamo entrati con offerte alle imprese, in particolare al mondo delle piccole e medie imprese, delle partite IVA, sul quale segmento oggi Sorgenia è un importante operatore di riferimento, e ancora fare delle partnership sul fronte dell'innovazione tecnologica, sviluppare nuovamente le fonti rinnovabili che oggi rappresentano una parte importante dell'attività di Sorgenia, e crescere nella relazione con le famiglie appunto attraverso i canali digitali. Allora, ultimo tema che riguarda invece, non riguarda la ristrutturazione che avete fatto, ma una domanda che poniamo a tutti i manager che o imprenditori che sono ospiti nostri in questi giorni, settimane, cogliendo spunto dal rapporto del Censis 2017 che ha detto la ripresa c'è ma cresce anche il rancore, cerchiamo di capire appunto quella che sembra un'apparente contraddizione. Voi che lavorate quasi esclusivamente con i consumi interni, con il mercato interno italiano, vi siete fatti, lei nello specifico, un'idea del perché, a fronte di una crescita economica mal distribuita che riguarda soprattutto le imprese che esportano, l'abbiamo spiegato molte volte, per carità, ma cresca anche il rancore, cosa vedete voi sull'andamento dei consumi interni? Ma diciamo, storicamente l'energia è un buon indicatore di monitoraggio dei consumi interni della domanda, no? Dalla Seconda Guerra Mondiale siamo stati abituati a vedere la crescita della domanda dell'energia come un indicatore, un buon simulatore, anche anticipatore, esatto, sì. Anticipatore anche dell'andamento del PIL. Questo è stato vero fino al 2008, dove cresceva il PIL, cresceva la domanda di energia, tendenzialmente la domanda di energia cresceva sempre un po' più del PIL, e poi c'è stato abbastanza improvviso, come sappiamo, crollo dei consumi, crollo delle produzioni industriali, delle aziende energivore che hanno chiuso, sono andate a produrre all'estero. Questo ha portato sull'energia una caduta fortissima della domanda, ancora più del PIL. Quello che noi vediamo oggi è, da un lato, che questo osservatorio della produzione dei consumi di energia è meno interessante, meno preciso di prima, perché è cambiato proprio il mix produttivo. E anche perché le tecnologie nuove, digitale e efficientamento energetico, consentono di creare a parità di prodotto qualcosa con un minore fabbisogno di energia. Quindi quella che tecnicamente si chiama intensità elettrica del prodotto interno lordo, anziché essere maggiore di 1, è minore di 1, scende. E con questo dobbiamo fare i conti, operatori del settore, quindi ricercare sempre più flessibilità, più efficienza, come dicevo prima. Dall'altro lato, quello che registriamo è che ci sono larghe fasce di consumo, e mi riferisco alle famiglie e alle piccole imprese, che poi sono i nostri più importanti, principali clienti, che fanno sempre più attenzione alla modalità con la quale consumano. Questo sia da un punto di vista di prezzi, sia da un punto di vista di proprio modalità con le quali si può risparmiare l'energia. Sotto questo aspetto oggi ci sono novità importanti, perché le tecnologie, ancora una volta, il telecontrollo, le tecnologie digitali, la sensoristica, il sistema di autoproduzione. Sì, ma dico, lei nei consumi, tornando, è vero che non è più così legato e correlato come una volta, ma voi avete notato un aumento, diciamo, nell'anno in corso, nell'ultimo anno, dei consumi, oppure è una ripresa che non si vede nei consumi neanche di energia? No, in tutto questo, diciamo, la buona notizia è che effettivamente da non molto tempo, negli ultimi 2 anni, stiamo registrando dei tassi di nuovo di crescita della domanda abbastanza interessanti, superiori all'1%, e questo un po' in tutti i segmenti. Le aziende industriali hanno ripreso la loro domanda, per esempio sul fronte dell'acciaio, che è un segmento importante per la nostra industria, c'è stata una certa ripresa della domanda. Chiaramente, finché non partono grandi opere infrastrutturali, non torneremo ai livelli ante crisi, ma stiamo registrando, diciamo, dei segnali molto incoraggianti un pochettino su tutti i segmenti. Non torneremo al livello ante 2008 ancora per, nelle nostre previsioni, 4-5 anni. Va bene, in bocca al lupo comunque, perché quando un gruppo si ristruttura il percorso è ancora lungo, come lei ricordava, ma insomma sicuramente è un giro di boa, in bocca al lupo a lei e soprattutto ai 300 dipendenti. Quindi grazie a Gianfilippo Mancini, amministratore delegato del gruppo Sorgenia. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo sulla borsa adesso, no, non subito, la borsa comunque dalla chiusura, vorrei fare prima l'Ilva, la borsa chiusa con un meno 0,74%, 349-238-6666 per sms e whatsapp, sì, è una nuova base quella che sentite, me lo scrivono alcuni ascoltatori, e la rimettiamo anche dopo il traffico. Non possiamo accettare che si dica, come è stato detto dal governatore della Regione Puglia, io facciamo così, intanto ritiro la misura cautelare, quindi la richiesta della domanda cautelare, ovvero di sospensiva, però il ricorso al TAR lo lascio in piedi. Io gli ho detto, ma Michele, questo comporta un costo per lo Stato, questo tuo ricorso al TAR di 2 miliardi e 200 milioni di euro, ma è giusto che lo Stato garantisca cosa? Garantisca contro il ricorso al TAR? Allora, signori, io credo che sia venuto il momento di avere un po' di chiarezza e per questo vi do nel dettaglio la presentazione fatta e vorrei che voi la guardaste punto per punto. Punto per punto. Capendo cosa vuol dire quando si dice valutiamo il danno sanitario e poi l'ARPA Puglia non lo sta facendo dal 2015. Capire cosa vuol dire non abbiamo l'accesso agli atti e poi nessuno chiede gli atti a cui vuole avere accesso. Capire cosa vuol dire noi vogliamo un comitato di monitoraggio sull'implementazione del piano ambientale, però gli unici due che non hanno nominato sono stati il sindaco e il governatore. Perché questo è il momento in cui questo fatto va trattato con la serietà che merita. Il governo italiano non è disponibile a buttare 2 miliardi e 200 milioni di euro per i ricorsi al TAR del governatore e del sindaco. Tanto lo sapete, un monumento a Calenda gli farei. Che cosa è successo oggi? Si sono scazzati di brutto tra il ministro e il governatore Emiliano della Regione Puglia, perché Calenda ha detto senza il ritiro del ricorso il tavolo è concluso. Che cos'è il tema? Il tema è che chiaramente se poi il privato, quindi ArcelorMittal, che deve investire, si trova bloccato tutto, lo Stato dovrebbe fare il garante e rischiare di mettere 2 miliardi e 200 milioni. Ma la cosa più interessante è quello che ricordava Calenda, cioè l'ARPA regionale non sta facendo dal 2015 gli accertamenti, ma porca miseria, ma volete far funzionare? E la stessa cosa riguarda anche le iniziative in cui mancano le nomine del sindaco e del governatore. Abbiamo detto mille volte, fate sto tavolo, chiedete le verifiche, volete un comitato supplettivo di vigilanza, nominate voi, fate lavorare l'ARPA che è regionale, Emiliano, non è statale, e dopodiché a quel punto se non siete ancora soddisfatti delle garanzie che dà ArcelorMittal come nuovo proprietario dell'ILVA, che dà la mediazione del governo, fai il ricorso al TAR. No, vuoi lasciare il ricorso al TAR lì bello che pende, e Calenda ha detto se permane la misura sospensiva presentata al TAR insieme al ricorso dal Comune di Taranto e Regione Puglia e il 9 gennaio dovesse essere accolta, inizierà in quella data il processo di spegnimento dell'ILVA. Emiliano dice il tavolo può proseguire anche senza Calenda, fa solo da mediatore, la soluzione si trova anche senza di lui. Calenda ha avuto una crisi isterica, il clima era positivo da parte di tutti, poi a un certo punto c'è stato uno scambio di messaggi, non so bene, tra De Vincenti e Calenda ha avuto una crisi isterica, si è alzato, ha fatto un intervento durissimo ed è andato via. Cosa sia accaduto lo spiegherà lui. Sentiamo Emiliano. Andava tutto bene, discussione okay. Costruttiva, avevamo anticipato che avremmo revocato le richieste cautelari, abbiamo presentato i punti sui quali non eravamo d'accordo e sui quali il DPCM doveva essere strutturato, clima positivo da parte di tutti, tutti interventi positivi. Poi a un certo punto c'è stato uno scambio di messaggi o di telefonino, non so bene, tra De Vincenti e Calenda, e Calenda ha avuto una crisi nervosa, si è alzato, ha fatto un intervento durissimo e è andato via. Che cosa sia accaduto lo spiegherà lui, quali sono le riflessioni. È chiaro che il percorso che si era iniziato era un percorso peraltro verbalizzato, assolutamente positivo. Noi siamo dell'idea che, siccome il ministro Calenda, diciamo, è il ministro pro tempore, che il tavolo si è insediato, che a mio giudizio può essere anche autogestito da tutti coloro che vogliono partecipare al tavolo, nel senso che la regione, il comune, la provincia, ArcelorMittal, il sindacato, se abbiamo intenzione di trovare una soluzione, visto che il ministro fa solo da mediatore, quindi se noi ci riusciamo anche senza di lui, possiamo tranquillamente trovare una soluzione. Vabbè, il ministero dell'SMS dice in una nota poi: ministro Calenda, non entro nel merito delle solite dichiarazioni scomposte del presidente Emiliano su di me. L'unico SMS che ho ricevuto nel corso della riunione veniva proprio da Emiliano ed era il seguente: dobbiamo chiedere formalmente di riaprire il riesame AIA nelle sedi opportune, ministero ambiente con autorità competenti tra cui regione, provincia e comune, e poi travasare gli esiti nel piano industriale, altrimenti aria fritta. Questa riunione di oggi non può superare le norme vigenti che attengono l'AIA. Insomma, Emiliano vuole riaprire tutto. Vabbè. No, guardate, qualcuno mi dice: ah, ieri difendeva la Boschi, oggi difende Calenda. Ha capito proprio male. Io adoro Calenda, ho solo detto che la Boschi politicamente sta venendo zavorrata parecchio dall'opportunità di muoversi in quel modo sulla Banca d'Etruria, che negli altri interventi dei giorni scorsi non c'era niente nel merito, cioè di attività messe in atto poi effettivamente per salvare Banca Etruria. Banca Etruria fallisce per il consiglio di amministrazione di Banca Etruria, per i presidenti, i vicepresidenti, e poi anche dovremmo ancora capire che cosa non è successo nella vigilanza. Però vorrei restare sull'Ilva. Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore da Taranto, buonasera. Buonasera Sebastiano. A me sto giro interessa anche poco capire chi ha mandato l'SMS, perché il tavolo... A me interessa veramente, interessano gli addetti, quindi si era arrivati ad avere fino a 11.000 addetti nel polo di Taranto, e chiaramente le garanzie sugli investimenti da fare per la messa in sicurezza ambientale. Cioè il fatto che l'Ilva non chiuda il 9 gennaio, ma allo stesso tempo vadano avanti i lavori di messa in sicurezza ambientale. Ma guarda, il tavolo di oggi ha fatto dei passi avanti, e questo è riconosciuto da tutti, anche dallo stesso Emiliano e dal sindaco di Taranto. Ci sono stati dei passi avanti per quanto riguarda il danno sanitario, nel senso che si è stato annunciato che il monitoraggio avverrebbe annualmente, laddove ci dovessero essere dati negativi. Ecco, in questo caso sì, si può chiedere la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale. E poi è stata presentata come sarà utilizzato il fondo sociale a partire dall'anno prossimo. È stato annunciato che la copertura dei parchi minerali, il primo intervento dell'AIA, il più importante, sarà fatto in 24 mesi e non più in 36 mesi, quindi c'è il taglio di un anno. Insomma, sono stati fatti dei passi avanti. Sembrava che il tavolo potesse portare ad una schiarita, invece poi abbiamo visto come è finita, con gli enti locali che hanno tenuto ferma la loro posizione, dicendo: noi ritiriamo soltanto la sospensiva, non ritiriamo il ricorso. Questo concetto l'ha ribadito anche pochi minuti fa il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ma è ovviamente questo ritiro parziale solo della sospensiva e non di tutto il ricorso non basta al ministro, perché ovviamente si pone un'ipoteca seria non solo sulla continuità della trattativa, ma anche sulla continuità stessa dell'azienda. Ovviamente questa posizione della regione, ma soprattutto alla discesa in campo di Emiliano con questi toni molto duri, molto polemici, è attaccata da tutti, a partire dalla FIOM, dalla CGIL, che sì, perché la cosa bellissima è che i sindacati sono preoccupati molto più di Emiliano della tenuta dei posti di lavoro. A me Emiliano sembra in palese campagna elettorale. Resta con noi Domenico, GR 24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Chiudiamo su questo, poi brevemente la borsa e poi la Boschi e Carrai, anche questo punto la Boschi e Carrai. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo chiudendo l'approfondimento sull'ILVA. Ripeto, al di là dei motivi, ormai sta diventando quasi una questione di idiosincrasia. Però Domenico Palmiotti da Taranto, tu ci stai facendo notare che anche i sindacati stessi sono molto preoccupati della piega che ha preso lo sviluppo della situazione ILVA dopo i ricorsi di Emiliano, del sindaco di Taranto, e la sospensiva. Prego. Sì, certo, c'è un coro, diciamo, unanime nel contestare questa posizione, questo irrigidimento di Emiliano, un coro unanime che va dalla FIOM di Genova, molto determinato su questo punto, alla CGIL nazionale, per parlare poi di FIM CISL, della UILM, tutti mettono in evidenza come si rischino i posti di lavoro e si rischia anche la tenuta dell'investimento, che è un investimento importante perché ArcelorMittal ha messo sul piatto 1,8 miliardi per l'acquisizione dell'azienda, 1,1 miliardi di bonifiche ambientali, 1,2 miliardi per interventi di rilancio industriale sugli impianti, quindi una cifra importante. Non a caso il ministro ha detto che non si era mai visto negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, un investimento di questa portata nel Mezzogiorno. È ovvio che questo investimento ha bisogno di certezze, ha bisogno di un percorso chiaro per poter essere portato a termine. Se invece interlocutori come gli enti locali chiamano fuori da questo percorso di certezze, è chiaro che la situazione non va bene. Lo stesso Mittal comincia a farsi due calcoli e a riflettere, anche perché il cammino è già impegnativo. Tutta la cessione dell'ILVA è subordinata al parere dell'antitrust europeo, che dovrà dire come l'operazione dovrà farsi, a quali condizioni. Alcune condizioni per esempio sono state già poste, che riguardano l'uscita di Marcegaglia dalla compagine di AM Investco e la dismissione da parte di Mittal dell'impianto di Piombino. Questo perché l'Unione Europea non vuole che si crei una concentrazione forte in grado di danneggiare e alterare gli equilibri del mercato e della concorrenza. Quindi dicevo, la partita è complessa di suo, c'è da tutelare l'occupazione, c'è da trattare con l'Unione Europea, c'è da affrontare la sfida ambientale con tutti i problemi che derivano da anni e anni di mancati interventi e mancati controlli. È ovvio che i ricorsi dei due enti locali non sono un granellino di sabbia nel meccanismo, ma qualcosa di più serio. Sì, io dico, a parte il fatto che io non ho ancora capito cosa vuole realmente Emiliano, nel senso che fate partire gli investimenti, in questo momento tutto è fermo, cioè fate partire gli investimenti, poi se vanno a rilento, se riaprire il tavolo, come diceva tra l'altro Calenda, attenzione che l'ARPA è regionale ed è lei che ancora deve fare le rilevazioni ed è indietro con le rilevazioni, ma riaprire tutto il tavolo sull'impatto ambientale, cioè vuol dire di nuovo ribloccare tutto. Allora, significa rifare il piano ambientale ex novo, il piano ambientale che ha presentato AM Investco, quello approvato col DPCM di fine settembre, non vale più. Sì, e vuol dire rispostare tutto in là, con il rischio che se ne vadano veramente gli investitori, anche perché io non ho capito, e questo vale, come dicevo ieri, anche per la campagna elettorale che sta per iniziare, a qualunque proposta voglio capire la copertura, io non ho capito l'alternativa. Cioè, un conto è chiedere misure stringenti, di osservare passo per passo che mantenga le promesse fatte, sacrosanto e legittimo. Io non ho capito invece se ArcelorMittal se ne va, che ne è dell'ILVA, dei suoi dipendenti, delle famiglie, la si chiude e basta, perché nel senso non è che si possa riaprire la gara. Cioè, questo che mi lascia perplesso nella posizione di Emiliano, del sindaco, aprire una crisi al buio. Altro è dire bene, faremo incontri periodici per verificare che voi vi atteniate a tutto quello che avete promesso, nel qual caso andiamo subito a fare un ricorso alla magistratura. Questo è un discorso completamente diverso e costruttivo. Grazie intanto a Domenico Palmiotti. La borsa la devo fare io, non è una minaccia, ma insomma è quello che capita in questa giornata, perché ho una pagina lunga su Boschi. Sì, qualcuno mi definisce Calenda, no, ho detto solo che stimo il ministro, mi piace tantissimo, sono quasi sempre d'accordo con lui, che non si può dire. Tanto non si ricandida, per cui non si candida, non si è mai candidato. Dicevo, meno 0,70% Milano, meno 0,56 Parigi, meno 1,1 Francoforte, meno 0,25 Londra, invariato il Dow Jones. Acquisti oggi solo sui titoli legati al settore minerario, e anche un po' di tecnologia e telecomunicazioni. L'euro è un po' in rafforzamento verso quota 1,19, 1,18,77. C'è stato di avere un balzo del credito valtellinese, che è il secondo miglior titolo in assoluto, più 8,60%. Ieri i soci hanno dato via libera a stragrande maggioranza all'aumento del capitale da 700 milioni e chiaramente il titolo respira, anche se ha perso più del 60% da inizio anno, ma insomma più 8,60% oggi. Dicevo delle utilities, ma abbastanza bene oggi tutte, anche perché A2A nello specifico si avvantaggia del via libera del comune di Monza, Lecco e Como, la Multi Utility Lombarda, ACSM Agam, di cui A2A avrà il 40% più 0,45%, Mediaset più 1,30%, Tenaris più 1,24%, percento, Brembo più 0,90%, Ferragamo più 0,80%, Saipem più 0,60%, come appunto Italgas e Yux Santa Portè. Di negativo, oltre a Unicredit meno 2,90%, c'è Leonardo meno 2, Recordati meno 1,70% come Buzzi Unice, meno 1,5% lo perde il Banco BPM, ST Microelectronics e Telecom Italia. L'1% è calo di Snam e di Atlantia. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo il traffico, la versione di Ghizzoni. Ripeto, per fare la sintesi delle puntate precedenti, abbiamo sempre detto, e questa linea non cambia, di distinguere tra il merito degli interventi, e quindi se questi interventi poi c'entrassero con il crack delle banche, avessero agevolato, avallato il crack delle banche, oppure se il merito, oppure se l'elemento fosse di carattere esclusivamente politico, l'opportunità o meno di interessarsi, ma senza nessuna conseguenza pratica. Allora, negli interventi di Vegas la settimana scorsa, ex presidente della Consob, Padoan, ministro dell'economia lunedì, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, ieri sempre in commissione, questa distinzione era netta, nel senso che tu da un lato hai avuto Vegas che ha detto sì, da Boschi mi chiese, Padoan che ha detto io non ho mai detto ai ministri di informarsi delle banche, né ho chiesto di riportarmi, erano iniziative private, io riferisco al Presidente del Consiglio. Visco che ieri dice no, me ne ha parlato Renzi ma non la Boschi, quant'altro, ma lì si riusciva a distinguere tra opportunità politica e conseguenze politiche pesanti, a giudicare da tutti i sondaggi che vediamo sul PD, e il merito poi di chi ha fatto fallire queste banche, che si chiamano manager, consigli di amministrazione, collegi sindacali, e anche il ruolo dell'autorità di vigilanza, che rischia di passare in secondo piano in cavalleria per la polemica sulla Boschi. Oggi il caso era diverso, perché veniva ascoltato l'ex numero uno di Unicredit solo ed esclusivamente per un passaggio, sostanzialmente per capire se fossero, se corrispondessero al vero o no, le dichiarazioni rese da Ferruccio De Bortoli nel suo libro, che adesso vi leggerò dopo il traffico, e poi ascoltiamo subito dopo le dichiarazioni di Ghizzoni, e ognuno può farsi un'idea se De Bortoli avesse ragione, e non si capisce a quel punto perché la Boschi ha minacciato querele poi trasformate in altre azioni con la magistratura, oppure se De Bortoli non avesse ragione, si fosse inventato tutto, riferisse cose sbagliate. L'intervento di oggi di Ghizzoni non è sul merito, anche perché lui conferma che poi se Unicredit valuta la cosa ma lascia cadere il dossier, è di carattere eminentemente politico. Così come l'altra cosa che è emersa completamente a sorpresa è questa mail di Carrai, che non aveva nessun ruolo istituzionale, se non, ed era da tutti conosciuto come uno dei più grandi amici di Renzi, la mail scritta a Federico Ghizzoni. Allora andiamo con ordine. La frase riportata nel libro di De Bortoli, che ha fatto infuriare il sottosegretario Boschi minacciando querele e poi altre iniziative giudiziarie, dice: l'allora ministro delle riforme Maria Elena Boschi chiese a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Chiese a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. Questa la frase contestata dalla Boschi di Ferruccio De Bortoli. Sentiamo la versione di Ghizzoni. E comunque alla fine la ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria, stressando di nuovo che era fatto ed era richiesto, seguendo questa preoccupazione sugli effetti della crisi in Toscana. Cosa risposi? Risposi che per richieste di questo genere, quindi acquisizioni, non ero in grado di dare nessuna risposta, né positiva né negativa. Dissi che avevamo già avuto un contatto con la banca, che le mie strutture stavano già esaminando la cosa e quindi avremmo dato una risposta eventualmente alla banca, e tutto in totale autonomia e indipendenza da parte nostra. Per esempio, una pressione sarebbe stata se mi avesse chiesto acquisite Banca d'Etruria. In realtà la ministra, nell'ambito del discorso che ho accennato poco fa, mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare un intervento in Banca d'Etruria. Questo, anche dal punto di vista semantico, fa la differenza. Dopodiché le pressioni uno le può sentire o non sentire, anche un aspetto soggettivo. Certamente il fatto che io risposi non sono in grado e non voglio dare una risposta oggi, decido io come amministratore delegato insieme alle mie strutture cosa fare nel discorso di Banca Etruria. Per me è una risposta al fatto che, se vogliamo, il discorso, la richiesta c'è stata, ma non ha leso la nostra capacità di decidere in maniera indipendente. Allora, mi sembra chiaro, Ghizzone dice la pressione è una questione soggettiva, io però poi il fatto che abbia deciso e le abbia detto adesso valuto e poi ti farò sapere significa che mi sono sentito libero di valutare. Però scusatemi, su questo De Bortoli non ha mai scritto l'allora ministro delle finanze fece pressioni per far acquistare. Ripeto testualmente, l'allora ministro delle riforme Mariana Boschi chiese a Federico Ghizzone di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria, ed è esattamente quello che conferma Ghizzone. Scusatemi, non si può sempre andare a spaccare capello in due. Dice la Boschi: mi ha chiesto di valutare una possibile acquisizione di Etruria, non l'ho percepita come una pressione, ma De Bortoli non parla di pressioni, e gli ho detto le farò sapere più avanti. Prima cosa, per cui la Boschi su sta Etruria si è mossa, e come? Perché non risulta da nessun altro atto che si sia mossa per Carimarche, per Ferrara, per Chieti, per Popolare di Vicenza e quant'altro. Su, allora, va bene, era il tuo collegio elettorale, abbiamo, diciamo, difeso la linea, non difeso, ma tenuto distinte le due linee fino a che era possibile. Oggi no, perché oggi era tutto di carattere politico l'intervento. Altro elemento, poi faccio chiudere il commento complessivo a Marco Ferrando, capo redattore finanza del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera. Ancora più a sorpresa la mail di Marco Carrai, amico di Renzi e imprenditore, quindi nessun ruolo istituzionale, in cui sollecita Ghizzone per un interessamento per Etruria. Per la verità, e qui devo dire tutto quello che è successo, mi arrivò il 13 di gennaio una mail da Marco Carrai, mail molto sintetica, me la sono trascritta, diceva: solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti, se possibile e nel rispetto dei ruoli, per una risposta. Per farla breve, decisi di non richiedere nessun chiarimento. E lo feci semplicemente perché non volevo aprire altri canali di comunicazione. Avevo detto che il mio canale di comunicazione, la mia risposta, andava esclusivamente alla banca, e risposi a Carrai dicendo che ok, stiamo lavorando, ti confermo che stiamo lavorando. Quando avremo finito le nostre analisi contatteremo i vertici di Etruria e daremo loro una risposta. Allora, Marco Ferrando, la Boschi, perché te dice nessuna pressione, ho solo chiesto informazioni. Oddio, chiedere all'amministratore delegato di uno dei primi gruppi bancari italiani se vuole valutare, come ministro glielo chiedi, la possibilità di acquisire Etruria, non è chiedere informazioni secondo te come va Etruria, ma è un'altra cosa, per favore. Sta cosa di Carrai, e poi Carrai risponde: anche nel caso della mia mail si trattava di una questione tecnica, niente di più, ero interessato nel rispetto dei ruoli, come ho scritto non a caso nell'email, a capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria, perché un mio cliente stava verificando il dossier di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà di Etruria. Ma perché lo chiedi a Ghizzone, che manco ha lanciato un'offerta? A parte il fatto che qua è tutto insomma, esiste anche l'insider trading nella vita, ma come puoi immaginare che un banchiere ammesso, e non era così, che stesse decidendo di acquistare Etruria ti dicesse qualcosa? Sarebbe stato insider trading, ma io non lo so. Comunque, Marco, a te il commento, io sto zitto. Ma mi verrebbero dire due cose. La prima, che oggi si è dimostrato che tutti hanno ragione in questa vicenda, quindi ha ragione Ferruccio De Bortoli a scrivere quello che ha scritto nel libro da cui è partito la Buriana nell'estate, per cui effettivamente Boschi ha confermato Ghizzoni, chiese di valutare. Ha ragione la Boschi, perché Ghizzoni, confermando di non avere due versioni ma una sola, ha detto che non ci furono pressioni ma un interessamento. Quindi se si andrà avanti in tribunale probabilmente sarà pari e patta, perché si dimostrerà che quello che ha scritto De Bortoli appunto corrisponde al vero, e quindi capiremo perché fino per mesi la Boschi non abbia querelato l'ex direttore del Corriere e del Sole. Per mesi io non aggiungo, querelata. Bastava che la Boschi dicesse: ma guardate, mi sono interessata, come di altre banche, anche di quella, il collegio elettorale, ne ho parlato anche con Ghizzoni, la cosa era chiusa. Ma se tu parti per la querela vuol dire che uno ti sta diffamando e quindi ha scritto cose completamente false. Non è così. È prego. Così, semanticamente, per usare il termine di Ghizzoni, direi che tutti sono allineati. No, io personalmente devo dire, come accennavi, sono colpito più, diciamo, forse da cittadino che non da altro, da questa mail che è venuta fuori, perché effettivamente una mail di due righe senza oggetto mandata il 13 gennaio, che peraltro era due o tre giorni, non ricordo, prima del varo del decreto sulla riforma delle popolari, quindi non parliamo di sede tregge, non abbiamo elementi, quindi rimanendo ai fatti, beh, è un po' curioso che comunque un esponente, una persona... A che titolo? Cioè, non è che posso chiedere a Ghizzoni, che lo conoscevo. Prende una mail, Federico.Ghizzoni, e scrive: ciao Federico, solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti. Solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto, nel rispetto dei ruoli, di sollecitarti se possibile. Ma a parte che non capisco poi la risposta di Carrai, che dice: ma io stavo lavorando per un mio cliente che voleva verificare il dossier di banca Federico Del Vecchio. Ma non è che, cioè, uno non scrive: mi è stato chiesto di sollecitarti. In italiano sollecitare qualcuno significa sì, no, anche esercitare una certa pressione. Si puntualizza nel rispetto dei ruoli, per cui, come dire, si vuole anche far capire che probabilmente non si vuole sbordare nella pressione, e sicuramente quando in quella fase non si immaginava che su questi passaggi si sarebbe fatta una commissione d'inchiesta. Sta di fatto che un po' di disinvoltura in quella fase storica evidentemente c'è stata. Io non credo sì, che però a tutti... tutta su Etruria, nel senso che a me verrebbe quasi voglia di difendere, ma cari Ferrara o Marche o i risparmiatori, è vero che Etruria il danno è stato anche forse più forte, però Casa di Risparmio di Genova, io non abbiamo agli atti nessun interessamento se non su Etruria. Ecco perché, a mio avviso, politicamente, non nel merito, Ghizzoni non fa neanche un'offerta a Etruria, vedono il dossier e lo fanno cadere, però fa aprire un dossier, perché questo lo conferma Ghizzoni, dice: dopo l'incontro con la Boschi ho chiesto a una mia collaboratrice di valutare l'operazione. Per cui nel contenuto non c'è, diciamo, di sostanziale non c'è poi niente, non è che ci sia stata un'offerta di Unicredito poi respinta. Però certo che politicamente diventa tutta in salita per essere buoni per i renziani, per la Boschi, dire che loro hanno semplicemente chiesto informazioni e incontri Vegas da una parte e vai da Ghizzoni dall'altra. E insomma, adesso tutti i partiti per noi sono uguali, diremmo la stessa cosa se l'avesse fatto la Lega, se l'avesse fatto Forza Italia, se l'avesse fatto i 5 Stelle, e basta, perché adesso va ben tutto, sollecitare una risposta, non un intervento. Ho capito, un po' diverso la frase, perché... No, e comunque l'amministratore delegato della seconda banca italiana, cioè io mail dirette non ho mai scritte per sollecitare nulla, non so te. Non so, ma poi io a massimo posso sollecitare un'intervista, conosco Ghizzoni, dice: scusa, caro Federico, dottor Ghizzoni, la sollecito, me la fa l'intervista? No, ma cosa vuol dire ti sollecito su Etruria, mi è stato chiesto di sollecitarti se possibile, da chi? Adesso sembra dal cliente per la banca Federico Del Vecchio, anche lì, insomma, attenzione. Non vorrei che, come dicono in Veneto, il tacon fosse peggio del buso, e cioè dire che tu per un tuo cliente stai cercando informazioni riservate non è il massimo. E chi te l'ha detto che Ghizzoni si stava interessando a Etruria? Perché noi non lo sapevamo, per esempio, noi lo scopriamo dal libro di De Bortoli, nessuno aveva scritto mezza riga su questa cosa. Come facevo a saperlo, Carrai? Domande che resteranno inespresse. Si chiude, spero, con oggi non tanto l'intervento di Marco Ferrando in questo programma, che rivolgiamo, ma diciamo l'attività principale è quella più significativa in questi giorni della commissione d'inchiesta bicamerale. Poi vedremo cosa succederà a inizio anno, quando verranno sciolte le camere e quant'altro. Grazie intanto a Marco Ferrando, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Vi sollecito anch'io ad ascoltare il programma. Focus Economia.